soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Allora, certo che battere il fisco è veramente un'impresa non indifferente, Mauro. No, è un'impresa che va sempre celebrata, ma dobbiamo dire, non per mancare di rispetto ad Orietta Berti, cara Debora, che non è la prima a vincere. Che non è la prima a vincere, perché questo è un tema, quello su cui appunto l'Orietta nazionale ha avuto la meglio, è un tema molto, molto, molto controverso. Esatto, sul quale voi avete versato fiumi, fiumi, fiumi di inchiostro. Ma guarda, diciamocelo. Mi inviti a nozze, tu stai portando, non lo sai, ma vasi a Samo e nottole ad Atene. Ti posso solo dire che di fronte a questa mi taccio. Sull'IRAP dei piccoli, perché sì, questo è il problema. Esatto, questo è ma il tema. Riepiloghiamolo per chi sì. Noi veramente da stamattina in tutto il nostro palinsesto stiamo citando il caso che vede come protagonista la grande, la nostra grande, il nostro grande usignolo di Cavriago. Appunto, ne stiamo parlando già da questa mattina. Orietta Berti ha battuto il fisco, che ora le deve rimborsare l'IRAP versato. Perché, Mauro? Spiegaci tu l'antefatto, allora, perché, e la conclusione della perché vicenda. Perché la sostanza è questa: nella norma madre dell'IRAP, che risale agli ultimi anni del secolo l'imposta scorso, regionale sulle attività produttive. Oh, benissimo, brava. Nella norma madre si dice che se non sei dotato di autonoma organizzazione, tale imposta non è dovuta. Allora si è scatenata la ridda delle interpretazioni. Certamente. Cos'è un'autonoma interpretazione? Se io ho un'autonoma organizzazione. Organizzazione, pardon. Cos'è un'autonoma organizzazione? Allora, ho un dipendente, però ce l'ho part-time. Ho un dipendente che però condivido, questo succede, non so, gli studi medici spesso hanno magari una segretaria in comune tra più medici, e questo è un altro caso che è arrivato fino in Cassazione. Ho il collaboratore familiare, mi aiuta nella mia attività un parente, un figlio, la moglie, il marito, quello che può essere. Ecco, c'è l'autonoma organizzazione o no? La domanda non è di lana caprina, perché se l'autonoma organizzazione non c'è, l'IRAP non è dovuta. È così faticoso per il legislatore dare una definizione appropriata a tutto ciò? Guarda, per il legislatore non lo so, ma noi abbiamo stimato che andare a escludere tutte le autonome organizzazioni e quindi tutto l'ambiente dei professionisti, degli artisti, eccetera, costa malcontati 2 miliardi. E questo è, allora, non è una domanda da 100 milioni, ma è una domanda da 2 miliardi di fatto euro. Fatto sta che la signora Orietta Berti è riuscita a dimostrare che non doveva versare in un periodo che è andato, da quello che ricostruisco dalla stampa, dal 2002 al 2007, non doveva versare quello che ha versato, circa 50.000 euro, perché non ha una struttura organizzativa con segretarie o agenti riconducibili ad una produttività vera e propria. Per questo il fisco le deve indietro questo denaro, che peraltro lei ha tenuto a precisare ha versato nell'indeterminatezza della norma. Certo. Ha versato per non vedersi poi bussare alla porta continuamente dal fisco, che reclamava chiaramente questa tassa con cartelle esattoriali e tutte le varie sanzioni, interessi, annessi e connessi previsti. Sì, perché però questo, io intanto verso. Questo però è un comportamento che i professionisti che ci stanno ascoltando e che se vogliono possono intervenire tema. Anche solo per la I numeri sono quelli abituali, naturalmente: 800 24 00 24 per telefonarci in diretta, sms e whatsapp li potete inviare al 349 238 6666. Siamo anche là, te lo volevo ricordare, siamo su Facebook. Adesso condividiamo anche sulle nostre pagine personali quella di Radio 24, ecco, così collegatevi con Facebook, perché oggi Debora è particolarmente come dire, non voglio dire elegante, sennò poi è offensivo, sembra che gli altri giorni venga qui Vengo vestita in pigiama. Male, questo non è assolutamente vero, però oggi devo dire è particolarmente piacevole da guardare. È perché quindi, sai, il tema di oggi mi piace particolarmente, in realtà è l'approfondimento che facciamo il giovedì, lo abbiamo fatto slittare al venerdì, abbiamo un ospite in studio, quindi volevo fare bella figura con tutti. Bene, allora presentiamo questo ospite. Ma lo presentiamo prima o dopo la sigla della trasmissione di oggi? Guarda, dell'approfondimento concludo di oggi. Solo il ragionamento sull'IRAP dei piccoli, perché volevo dire, questo procedimento che tu ricordi ricordavi, cioè pago e poi chiedo a rimborso, è quello che purtroppo i professionisti conoscono molto bene, cioè si paga, poi si va in lite con il fisco, si arriva, come è stato il caso di Arietta Berti, di molti altri artisti, ma anche di persone non così famose, non così note, e poi si chiede il rimborso. A volte si perde, perché anche Arietta Berti aveva perduto nei primi passaggi, e poi però la Cassazione le ha dato ragione. Certo che comunque gli artisti ogni tanto incappano in questi vicende, insomma, qualche non volta proprio c'è un problema dal Gigi D'Alessio al Tiziano Ferro, anche ci sono problemi di attribuzione prima. Di questo tipo di redditi, il fisco li digerisce male, però a volte anche magari gli artisti stessi o i loro consulenti fiscali hanno un po' di fantasia nell'interpretare l'appostazione delle somme. Certo, allora li abbiamo chiamati ad intervenire sull'argomento. E arrivano subito. Sì, certo, perché noi abbiamo un amico che ci segue sempre, Francesco Piastrellista, che peraltro saluto perché lunedì saremo a Bologna a Cersaie, che è il regno delle piastrelle. Pertanto Francesco, lunedì dedicheremo ancora una volta una trasmissione a lei, ma dice: scusate, io che sono ditta individuale la devo pagare? E la ditta individuale, secondo me, l'IRAP la deve pagare, però se lui non ha collaboratori nulla è dovuto, perché questa imposta qui nasce in realtà sui lavoratori, sui collaboratori, sui dipendenti. Poi è stata successivamente però detratta questa parte, adesso non vorrei annoiare gli ascoltatori. Io neanche mi intrometto in quello che stai dicendo, in questo tuo monologo sull'IRAP. È rimasto però sto problema dell'autonoma organizzazione, quindi... Francesco Piastrellista, così da come rapidissimamente lui lo descrive, se non ha collaboratori, se non ha altri... Segretari e manager che lo aiutino in questa peraltro, attività. Appunto, c'è molta Cassazione sul punto. Sul Sole 24 Ore ne abbiamo parlato tantissime Benissimo. Volte e la Cassazione per lo più ha dato ragione ai contribuenti. Ottimo, allora lasciamo da parte il fisco, Arietta Berti, andiamo al nostro tema di oggi. Investire informati. Eh sì, ieri era giovedì, che è il nostro giorno di investire informati, ma essendo a Genova ci siamo occupati di un altro argomento più attinente al Salone Nautico che ci ospitava, pertanto investire informati lo abbiamo trasferito ad oggi, ma il tema ci piaceva così tanto, quello che peraltro in realtà è un tema che rubiamo ai colleghi di Plus 24 che ne hanno fatto la storia di copertina che sarà in edicola domani, il tema è i costi invisibili dei fondi comuni di investimento. Sono particolarmente contenta di fare questa puntata, caro Mauro. Sì, perché? Te lo dico io perché nel percorso che ci siamo dati con Investire Informati ogni tanto qualche ascoltatore dice che io tendo a tirare un po' troppo la volata all'industria del risparmio gestito, ai fondi di investimento, che non ne vado mai, non vado mai a caccia delle criticità di questi strumenti di risparmio. Per cui allora li accontento e tutte le criticità le tiriamo fuori tutte in un'unica puntata, così speriamo quantomeno di mettermi la coscienza a posto. Ma direi che mi sembrano delle critiche un po' mal riposte per quanto ti conosco, ecco, però qua, sicuramente grazie. Ecco, molto spesso ci capita di sottoscrivere dei fondi comuni, lo strumento è particolarmente diffuso, piace molto agli italiani peraltro, e allora noi abbiamo chiamato Gianfranco Ursino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ciao, domani voi avrete quella che chiamate storia di copertina su questi costi non visibili, non voglio dire invisibili, perché poi in realtà si potrebbero anche riuscire a capire, ma spesso si capiscono troppo tardi. Non percepibili, diciamo, ecco, forse il termine più esatto. Costi diretti e indiretti. Oggi c'è un acronimo che li raccoglie tutti, quindi diciamo che dobbiamo cominciare a fare amicizia con un'altra sigla, visto che ce ne capita una ogni tanto. In questo caso parliamo del TSC, che è il Total Shareholder Cost. Caro Gianfranco, a te l'onore di spiegarci di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di questa nuova sigla che Banca d'Italia ha coniato perché ha portato avanti uno studio che per la prima volta andava ad analizzare non soltanto i costi che sono in genere a carico del fondo, che poi comunque indirettamente li paga il sottoscrittore. Certo. E quindi la commissione di gestione, commissione di incentivo, adesso lo facciamo un bel ABC di tutte quanti i costi che di solito gravano e li paga il fondo, ma anche quelli che vengono pagati direttamente dall'investitore all'atto della sottoscrizione del prodotto o al momento dell'uscita. Banca d'Italia ha potuto fare questa analisi approfondita perché ha i dati di flusso che gli intermediari sono tenuti a comunicare per singolo fondo all'autorità di vigilanza. vigilanza. Certo. Queste informazioni una volta venivano anche girate agli organi di stampa. C'è stato ormai da 10 anni che non vengono più comunicati, quindi c'è questa impossibilità da parte nostra di avere anche il dato della singola raccolta di un fondo. Ormai non c'è più la possibilità, c'è una trasparenza che sta avvenendo meno invece di aumentarla su questo fronte. Perché io stavo pensando che questa faccenda dei costi dei fondi comuni è vecchia, mi viene da dire quasi come Noè, no? Quasi c'è come stata, i fondi. Esatto, sì, che hanno 30 anni. Più o meno l'industria, diciamo, del risparmio gestito ha una 30 anni, questo compleanno lo ha fatto qualche tempo fa. C'era la famosa indagine di Mediobanca che metteva in evidenza tutto la problematica appunto del costo dei fondi comuni. Adesso invece c'è questa di Banca d'Italia che forse è la prima volta. E aggiunge quest'altro tassello, perché Mediobanca, Morningstar, noi di Plus o altre tese giornaliste che hanno condotto in questi anni sempre puntualmente le varie analisi, si basano sempre sui dati che vengono comunicati nei rendiconti annuali o nei prospetti informativi che vengono aggiornati periodicamente a fine febbraio, e dove ci sono indicazioni dei costi, però non di tutti i costi, perché questi qua sfuggono naturalmente a quelli che sono le contabilità dei fondi comuni, perché già i soldi che entrano nel fondo vengono decurtati da, quindi quando tu versi 1000 euro e c'è una commissione d'ingresso del 3%, sul fondo vanno a finire non tutti i 1000 euro, vengono decurtati dal 3% che dicevamo. In realtà, quindi, questi costi il sottoscrittore li sostiene, anche se non li vede poi nel versamento che fa dettagliatamente. Però se va magari a dare dopo un po' un'occhiata a quanto rende questo fondo, si accorgerà appunto che la cifra iniziale versata è inferiore rispetto a quella che pensava. E quindi, detto ciò, non è che contestiamo il fatto che ci siano delle commissioni, sì, certo, come dire, la pletora di tutti gli oneri sui fondi potrebbe essere rivista e magari resa un po' meno pesante per i sottoscrittori. Il tema è che molto spesso i risparmiatori, Mauro, non sanno bene quello che pagano. E questo pagano, mi sembra il punto più, voglio dire, più evidente, più da mettere così nel mirino, che è quello che poi farà domani Plus, cioè il fatto che uno non sia perfettamente al corrente dei costi che deve sopportare. Dopodiché è chiaro che, come tutte le cose di questo mondo, i servizi abitualmente si pagano, l'industria del risparmio non è un'industria no profit, e quindi è corretto che ci siano dei costi connessi. Che ci siano anche senza esagerazioni e che siano spiegati, perché poi qual è il discorso? Che noi riceviamo queste email, no, che arrivano dai lettori che segnalano proprio questi aspetti. Dice: ah, mi era sfuggito questo particolare di questo costo di ingresso o di uscita. Oppure dall'altra parte ti ritrovi invece le case di gestione o i consulenti, poi che sono quelli che si interfacciano con i clienti, con i sottoscrittori, che ti dicono: ah, ma noi l'avevamo spiegato. Sì, bisogna vedere come gliel'hai spiegato. E su questo, poi, se volete, ne approfondiamo un po' il discorso, la MiFID interviene. Esatto, è un passaggio importante quello che fai, perché quello che volevamo capire è se questa indagine della Banca d'Italia è in qualche maniera anche preparatoria all'ingresso nel nostro ordinamento delle nuove regole contemplate da MiFID 2 sul fronte appunto delle commissioni e dei costi dei prodotti di investimento. Abbiamo però anche un altro ospite, Mauro. Sì, è vero, perché è in collegamento telefonico con noi Gianni Lupotto, che è consulente finanziario indipendente e l'amministratore delegato anche di Alfa SCF. Buongiorno, dottor Lupotto. Sì, buongiorno a tutti, un ben ritrovato agli ascoltatori. Eccolo qua. Allora, peraltro, consulente indipendente, generalmente questa categoria di consulenti non amano moltissimo l'industria del risparmio gestito e lo strumento fondo di investimento tradizionale, proprio per le strutture molto spesso opache, insomma, non tanto trasparenti dei costi, no? E quindi voi, so che suggerite magari a chi viene a chiedervi consulenza, in particolar modo gli ETF, ma questo è un altro tema, Lupotto. L'indagine di Banca d'Italia, adesso magari ce lo facciamo anche dire da Gianfranco Ursino, mette sotto i riflettori in particolar modo una categoria di fondi di investimento, che sono quelli cosiddetti a scadenza. Che cosa sono, Lupotto, e che caratteristiche hanno? Sì, i fondi a scadenza sono una particolare categoria di fondi che si contraddistinguono per avere tre caratteristiche principali. Anzitutto sono collocati in un periodo di tempo limitato, che viene appunto chiamata finestra di collocamento. Significa che possono essere sottoscritti durante un periodo che di solito dura pochi mesi. Questo li rende quasi, diciamo, dall'impressione che siano prodotti un po' esclusivi. In realtà non è inusuale che lo stesso gestore metta sul mercato un gran numero di prodotti gestiti sempre nella stessa maniera, con finestre successive. Così di fatto c'è una finestra sempre aperta sul medesimo prodotto. La seconda caratteristica è che, appunto, come dice il nome, scadono dopo un periodo predefinito, che normalmente è di qualche anno, nella gran parte dei casi è 5 anni. Se l'investitore decide di uscire dall'investimento anticipatamente, si trova a dover pagare una penale. In ogni caso, alla fine del periodo di mantenimento, il cliente è libero di ritirare i risparmi senza dover apparentemente pagare nulla. Dico apparentemente perché poi si vedrà che qualcosa c'è da pagare. Il fondo alla scadenza viene chiuso, ma bisogna esplicitamente ritirare i propri denari, perché salvo casi rarissimi, gli asset, se il risparmiatore non fa niente, vengono trasferiti automaticamente in un altro fondo della medesima società. La terza caratteristica è che sono normalmente offrono una cedola. E questo è il motivo perché hanno un grande consenso da parte del risparmiatore italiano, perché certo, in questi anni sono andata a caccia di cedole. Sotto una cifra, scusami Gianni Rupotto, e l'anno scorso, 2016, l'industria del risparmio ha raccolto in Italia 35 miliardi. 35 miliardi, ben 21 erano destinati sui fondi a cedola, più della metà. E certo, dato come dire la poca generosità che ha il BTP da qualche tempo a questa parte, è chiaro che il risparmiatore italiano è andato a caccia di alternative. Quindi l'ultima caratteristica la completiamo, Lupotto? Sì, che questa storia della cedola viene presentata appunto come una restituzione dei rendimenti, ma spesso non è così, perché non vengono restituiti solo i rendimenti, ma anche alle volte una quota capitale. Magari lo vediamo meglio più avanti. Come diceva giustamente Ursino, hanno avuto moltissimo successo, e questo, diciamo, la dice lunga sul solerzia con la quale le reti lo distribuiscono, perché si vede, salta subito all'occhio che questi strumenti cerchino di replicare o mimare la struttura dei BTP, che è la soluzione più popolare fra le famiglie italiane. Certo, e quindi questo li rende particolarmente attraenti di fatto, perché sì, la attraenti. Cedola, però non è che spesso questa cedola, perdonami Gianfranco, considerate che anche queste spese che si vedono poco o non si vedono sia così generosa, o sbaglio? Allora, la cedola può essere anche generosissima, diciamo, in quanto loro la predefiniscono e ti dicono ti diamo il 3, il 4% l'anno. Il problema è che te lo danno anche se il fondo non ha reso il 3-4%, esatto, anche se il fondo perde. Quindi cosa succede? In realtà ti stanno restituendo parte dei tuoi soldi, perché poi questa cedola loro la stabiliscono fino all'ultimo anno. Nell'ultimo anno, no, del fondo, ti dicono la cedola non è certa, però te lo scrivono in piccolo, devi andare a cercarlo con la lente di ingrandimento questa nota, e quindi cosa Sherlock succede? Holmes. Che l'ultimo anno, quindi, questa cedola non è garantita e quindi si va a bilanciare. Solo in quel momento uno scopre che in realtà quello che mi hanno dato in questi anni, questo 3-4%, in realtà erano i miei soldi che venivano tolti dal fondo. Poteva e per essere fare una questo, parte di guadagno, una parte del capitale che avevo messo lì non all'inizio. Non c'è bisogno, voglio precisare questo aspetto qua, che viene sempre dimenticato, che non c'è bisogno di fare un fondo a cedola per avere questi flussi reddituali che vanno a integrare il tuo reddito. C'è anche nei fondi comuni un sistema che si chiama piano di rimborso programmato, che uno può dire alla casa di gestione: voglio che sono in procinto di andare in pensione, oppure sono in pensione, certo, voglio avere perché un gruzzoletto che ho messo da parte, così ogni mese avere quei 100, 200, 500 euro, stai tu a deciderlo, ed è previsto, quindi non c'è bisogno di questa fondo a cedola che i distributori sono incentivati a collocare, che il successo nasce da lì, in quanto vengono a incassare subito le commissioni che il sottoscrittore naturalmente non vede, in quanto gli dà il fondo. Il sottoscrittore poi queste cifre gliele vengono prelevate durante tutta la durata dell'investimento, quotidianamente, pro quota, vengono ammortizzate, un altro termine che piace penso Mauro, che quindi cosa succede? Man mano vengono decurtati per poterle rifocillare il fondo stesso che le ha anticipate al collocatore, che quindi ha questo incentivo a collocare questi prodotti. Quindi già la cedola praticamente te la ripaghi tu con il tuo capitale. In tutto questo fondo ha anche tutta una serie di costi che devi sostenere nel momento in cui lo sottoscrivi, nel caso malaugurato in cui tu voglia uscire anticipatamente, eccetera. Quindi alla fine quello che hai versato praticamente ti viene restituito la metà. Detto ciò, l'importante è saperlo tutto questo. Infatti, infatti, però Debora adesso, no. Guarda, sì. Ci dobbiamo fermare un attimo. Davvero? Perché è il tuo momento. Ottimo. Allora, signore, signore e signori, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Buongiorno, sono Fiorella, pensionata di 76 anni. Ho investito una piccola somma in PIR presso una grande banca nazionale. Il consulente mi aveva detto che non ci sarebbero state commissioni per la sottoscrizione, oltre ad altri vantaggi fiscali. Purtroppo, sul documento di sottoscrizione pervenutomi a un mese dalla data di accettazione, ho visto indicate delle spese di sottoscrizione, che risultano rappresentare l'1,75% del magro capitale investito. Mi chiedo se è pratica comune applicare tali percentuali, quando mi era stato assicurato di non avere commissioni da pagare. Mi chiedo a questo punto se il gioco valga la candela. E poi, quali e quanti altri balzelli ci saranno sotto? Il mio consulente è stato molto vago a proposito. Vorrei un vostro giudizio. Grazie. Noi glielo daremo in privato, naturalmente abbiamo bisogno di qualche dettaglio in più, lo abbiamo già chiesto a Fiorella rispetto a questo prodotto. Mauro, cosa ci suggerisce questo caso? Però è vero che quanto stiamo dicendo testimonia che quello che ci capita spesso di ripetere qui a Due di Denari. Non è che noi si voglia essere contro un certo tipo di prodotto o a favore di un altro tipo di prodotto. Ci vuole la trasparenza nei confronti dell'investitore, cioè l'investitore deve essere reso edotto, reso consapevole, lo ha detto di recente, lo abbiamo detto appunto anche a proposito della Corte di Giustizia europea questa settimana, dei rischi, dei costi del suo investimento. Ecco, tra l'altro, proprio su Plus, voi segnalate quant'è l'incidenza di questi costi TSC, per dirla con la sigla coniata dalla Banca d'Italia. Coniata da Banca d'Italia sui fondi comuni. Quant'è, Gianfranco? L'incidenza tanto di questi costi sono dell'1,58%, che vanno un po' ad aggiungersi a quelli che sono i canonici, diciamo, quelli con cui finora, no, naturalmente noi abbiamo sempre analizzato costi di gestione. Quindi va sommato questa percentuale, che nel caso della lettrice di Fiorella equivale all'1,75%, ma possono arrivare anche fino al 4-5%, perché qual è il discorso? Allora, I costi di sottoscrizione ci sono sempre stati nei fondi comuni, in quanto dovevano andare a remunerare quelli che sono i collocatori, la consulenza che ti devono offrire, no? E quindi negli anni però è venuta meno perché c'è la possibilità, è discrezionale, c'è la possibilità di azzerarla da parte del collocatore, in quanto poi gli vengono retrocesse, come avviene qui in Italia soprattutto, il 70-60% delle commissioni di gestione. Il gestore che tu paghi per la gestione del fondo, in realtà, per incentivare il collocatore a vendere il suo prodotto, gli gira il 60-70% dei suoi guadagni, che poi stiamo parlando della cassa di gestione che gli gira la stessa banca di cui è proprietaria. Altro quindi c'è questo meccanismo. Cosa succede quindi? Con l'avallo dei fondi a cedola, che ha ripristinato e istituzionalizzato questa commissione di ingresso, che è stata quindi messa senza possibilità di trattare per tutto quel meccanismo che spiegavo prima, anche sugli altri fondi dove era già prevista la commissione di ingresso, si sono un po' autorizzati un'altra volta ad applicarla, perché sempre di più riceviamo, come Fiorella, anche una nostra collega, mi faceva vedere il rendiconto, che è già tanto, che è bravissima, che Fiorella, che ha dato a riguardarsi il prospettivo che gli è arrivato a casa dopo un mese, e nota questa voce che invece non gli era stata spiegata. Ora, non solo, a chi la spiegano, come la collega che mi spiegava prima, gli dicono: ah, guarda, ti faccio uno sconto, perché loro cosa dicono? La commissione è massima del 4%, ti applico il 2%, no? Guarda, ti faccio un favore. In realtà quella commissione, e chiedetelo perché loro guadagnano su altro, può essere azzerata, come sempre avvenuto, quasi sempre avvenuto in questi anni. Adesso invece, come sottolinea Banca d'Italia, c'è stato questo ritorno favorito dai fondi a cedola. Allora, grazie Gianfranco. Ne hai citati tanti, peraltro magari facciamo, Mauro, che dici, un po' di ABC, un po' di educazione finanziaria nel nostro programma. Direi di sì. Ci candidiamo. Anche perché premono gli ascoltatori, ascoltatore spremunt, mi viene da dire, come Maiora Premunt, insomma. Vogliono sapere, noi proviamo appunto a spiegare con Gianni Lupotto, che ci aiuta anche in questo percorso percorso di educazione finanziaria, allora quali sono tutte le voci di costo a cui dobbiamo fare attenzione nel caso in cui decidiamo di investire in un fondo di investimento, che peraltro abbiamo sempre anche considerato un buon prodotto su cui investire, perché banalmente consente la massima diversificazione e la minima concentrazione anche di denaro, no? Che faticosamente si risparmia. Abbiamo visto quanti errori hanno fatto purtroppo negli ultimi anni i risparmiatori italiani, per esempio qualche volta mettendo tutto il loro denaro nella classica obbligazione bancaria, no? Il fondo ti consente sicuramente di diversificare, difficilmente fallisce, sicuramente può perdere e il rendimento può essere eroso da queste voci di costo. Allora, quali sono voce per voce le più importanti commissioni che vengono applicate ad un fondo di investimento, Lupotto? Sì, lascio per ultima la voce più importante, e le altre sono le seguenti. Intanto la commissione di ingresso, come diceva Ursino, che è la somma trattenuta sul versamento iniziale in un fondo. Questa è sempre meno gradita dal risparmiatore e quindi viene sostituita con meccanismi meno trasparenti, come quello adottato dai fondi a cedola, in cui apparentemente non c'è, ma in realtà c'è. Poi c'è la commissione di uscita trattenuta in caso di uscita anticipata da un piano di versamenti rispetto a una certa scadenza. Lei prima l'ha chiamata proprio penale. Sì, penale, certo. C'è la commissione di performance, che non è presente in tutti i fondi ma solo in alcuni, che viene trattenuta qualora la performance di un fondo superi un certo livello predefinito. Qui va detto, si apre un capitolo, non sempre con criteri perfettamente logici, ma sarebbe un altro capitolo da aprire. Esatto. Poi c'è la commissione di switch nel caso di passaggio da un fondo ad un altro della stessa casa di investimento. E poi ci sono altre voci più o meno nascoste che non sono molto note, per esempio il costo della negoziazione degli strumenti sottostanti, i costi della banca depositaria, i costi di pubblicazione della quota del fondo sui giornali e altre piccole o grandi voci che fanno lievitare il costo e contribuiscono appunto alla formazione del TER o del TSC. La voce più importante comunque sono le commissioni di gestione, su cui ritorno, perché sono i costi annui ricorrenti trattenuti dal fondo, quindi la parte più importante del costo. In realtà questa commissione di gestione, come bene diceva Rustino prima, è composta da due componenti. C'è una componente che è sempre presente, che va a remunerare effettivamente il gestore del fondo, e c'è una seconda componente che va a remunerare la catena distributiva, cioè la banca o la rete di collocamento, e che dovrebbe servire non solo a remunerare il collocamento, ma anche la consulenza prestata dal promotore o dal bancario che suggeriscono quel determinato fondo. Il paradosso è che questa parte viene comunque sempre versata dal cliente, anche se per esempio il cliente compra il fondo online e quindi non usufruisce di alcuna consulenza. Quindi questo è un paradosso che rende il fondo più inefficiente in molti casi. Perché Lupotto, la sostanza è: se io comprassi un fondo online, quindi non ho avuto nessun tipo di consulenza da alcuno, mi sono arrangiato per conto mio, ho comunque questo tipo di commissione, di parte delle commissioni di gestione che lei ci ha spiegato adesso. Sì, in realtà, se posso aprire una piccola parentesi, ci sarebbe già una soluzione bella pronta e disponibile in Italia, che è una soluzione che stenta però ad affermarsi. E sono i fondi quotati, no? Esatto, perché già da tempo Borsa Italiana ha messo a disposizione un segmento del mercato ETF, quindi esattamente quello dove si negoziano gli ETF, dove le case di investimento possono quotare i fondi. E tutte le banche che operano già sul segmento ETF possono avere accesso e offrire questa possibilità ai propri clienti. Però appunto, come diceva lei prima, non hanno bisogno di consulenza. Io non so neanche in quanti siano pronti in Italia a poter fare queste operazioni. Chi vuole andare a prenderlo, ad esempio, cioè, c'è il fondo che ti costa, se te lo vende il promotore, il 3% anno, il 2%, comunque sono tanti i fondi che ti costano il 2%, diamo questa cifra. In borsa, no? C'è lo stesso, che la società sta accumulando, ci sono più di 100 fondi ormai, che ti costa lo 0,7, lo 0,8, proprio perché va a decurtare. Già in quella classe di fondo, che è poi identico come tipo di gestione all'altro, ti fanno non pagare queste commissioni. Quindi chi lo compra in borsa ha la possibilità di spendere molto meno. Allora, intanto siamo arrivati alle 11.44, è un tema molto delicato quello che stiamo affrontando questa mattina, molto complesso, possiamo arrivare a dire sicuramente, visto che vi abbiamo dato tutte queste informazioni, nel caso in cui stiate meditando sull'idea appunto di investire in un fondo di investimento, fatevi fare un bel prospetto, una paginetta su tutti i costi che gravano attorno a questa operazione e quindi poi magari potete anche decidere di farla perché siete tranquilli, cioè, paghiamo per un servizio e non vogliamo più sapere. No? Alle volte ci è già capitato di dirlo, uno chissà, un po' di pudore, quasi si vergogna a chiedere, però qui io inviterei tutti noi, anche me stesso, a ricordarci che in fondo sono i nostri soldi, quindi abbiamo tutto il diritto di sapere, di chiedere e se non capiamo qualcosa di chiedere un'altra volta. Infatti. Perché anche questo fatto di ricevere un prospetto un mese dopo aver sottoscritto, ma insomma lascia un pochino perplessi, no Gianfranco? Bisognerebbe dare prima naturalmente di sottoscrivere e dargli anche il tempo per poterlo leggere e poi ritornare e decidere con calma e invece fare tutte le domande poi del caso. Allora un po' di tempo ce lo prendiamo noi perché adesso è il momento. Sai che oggi devo viaggiare, no? Per cui fammi un po' sentire se allora guarda, ti serviamo subito. Più solenne del solito. Traff! Due di denari. Ti piace di più Mike Buongiorno o Corrado? Non lo so, per il quizzettone. Sai, è il momento del domandone, è sempre un momento emozionante. Allora, esatto. Che cosa chiediamo oggi? Dovete risponderci chiamando 800 24 0024. Allora, abbiamo fatto una bella lezione di risparmio gestito poco fa, con delle indicazioni molto chiare da parte di Gianni Lupotto. Se le avete seguite, sarete in grado di rispondere al nostro domandone. Diteci almeno tre voci di costo dei fondi comuni di investimento. Ce n'è una marea, quindi scegliete a caso perché ci azzeccate senz'altro. Quindi numero verde per rispondere, per guadagnarvi il riconoscimento che ancora non abbiamo deciso quale dare, se un CD dei Chapter 11 oppure uno dei nostri libri, Gadget di una bella, Radio 24 o una guida del Sole 24 Ore, ne avete anche voi tanti. Cioè quella recente sulle liti fiscali magari, che potrebbe essere interessante. Esatto. Ecco, intanto facciamoci fare noi dei domandoni. Guarda, dagli ascoltatori in attesa. Antonio da Verona, che dici Debora? Chiamiamo Antonio da Verona. Andiamo a Verona, sai che i veneti ci amano moltissimo, per cui è un piacere. Anche tutti gli altri, però i veneti forse un po' di più. Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi, grazie. Volevo dire semplicemente che io per tre volte, non due, tre volte ho chiesto di fare certi investimenti. Praticamente mi è stato negato perché insistevano appunto col discorso del rischio, ma se il rischio è del cliente, la banca deve stare zitta e basta, capisce quello che voglio far capire. Ma che c'era lì? Però anche con le lire, se vi ricordate quando l'Olivetti era a circa 5 lire, ecco. Non mi hanno fatto investire neanche lì perché secondo me c'è qualcosa sotto che vogliono fare. Allora Antonio, vabbè, qua magari stiamo andando un po' fuori strada rispetto al tema di questa mattina. Insomma, qualche volta anche il cliente chiede con insistenza di fare certe operazioni e quando il consulente prova a proteggerlo, come mi sembra così ad occhio nel caso di Antonio, dici bene, il cliente, Deborah. Ecco, posso dire, no? Dici bene perché lì c'è una normativa da rispettare, questa famosa MiFID che ormai ritorna. Che, di cui abbiamo a breve la seconda edizione. Che impedisce alle banche naturalmente di offrire dei prodotti più rischiosi di quello che in realtà il soggetto è in grado di sostenere. Quindi quando vi fanno quel colloquio iniziale è molto importante dare risposte in maniera tranquillamente, diciamo, reali, sinceri, in maniera tale poi che effettivamente rispecchiano quelli che sono i rischi che uno riesce poi a sopportare. Ecco, forse la difesa d'ufficio dell'industria non è altrettanto forte nel caso di Roberto da Parma. No. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno. La domanda. Allora, io sono stato procuratore generale di mia zia che ha 96 anni. Tre anni fa gli hanno fatto firmare, in nome del procuratore generale, gli hanno fatto firmare per dei fondi di investimento Amundi, per non fare i cognomi e i nomi. Abbiamo potuto firmare. ci sta rimettendo il valore adesso del suo investimento è calato di circa 4.000 euro e io volevo dire, ma adesso sono andato in banca e ho detto dunque ok, ritirate tutto, mettete tutto sul conto corrente e non se ne parla più perché almeno non ci rimetto del capitale. Certo. E No, ma il tema è che a 92 anni proporre un fondo di investimento che comunque, male che vada, un'ottica temporale di 3-5 anni deve averla, ecco, mi sembra 96 un'operazione. Anni, tra l'altro, se ho adesso inteso bene. L'ha investito, il fondo l'ha sottoscritto qualche anno fa, quindi comunque over 90 lo era la nostra gentile zia. E a noi le auguriamo naturalmente di vivere fino a 120, quindi di comprare anche un Matusalem Bond, perché no, quelli da 50 anni, però effettivamente forse qui il prodotto non era il più adatto al cliente. Esatto, quindi qua diciamo che la commissione per uscire è l'ultimo dei problemi rispetto al comportamento di questo intermediario. Gianfranco. Sì, a prescindere, è interessante capire anche la tipologia di prodotto, oltre che il nome della società di gestione, in quanto non mi meraviglierei, se, visto la perdita che ha accusato, che fosse anche un fondo azionario. Mm-hmm. Mm. O anche un obbligazionario, perché in questi anni non sono andati molto bene, un azionario di quei mercati. Beh, non certo su Wall Street non ha certo colto la crescita del mercato americano. Gianni Lupotto, un commento finale da un minuto, anche se vuole, rispetto ai casi che ha sentito. Ma diciamo, il commento finale è che bisogna sempre informarsi, cioè lo abbiamo capito che l'industria è un po' pigra a dare informazioni, ad essere trasparenti, e quindi non bisogna vergognarsi di chiedere. Quindi quando viene proposto un investimento, in particolare un fondo, anzitutto bisogna chiedere la spiegazione del motivo per cui il fondo è suggerito, perché se è adeguato, se è idoneo ai propri obiettivi di investimento. In secondo luogo chiedere sempre se ci sono alternative rispetto alla soluzione proposta, e poi sul fronte dei costi, l'abbiamo detto, bisogna chiedere un resoconto dettagliato dei costi di gestione, di quanto questi costi vanno a remunerare il gestore o la rete. Sono tutte informazioni che con la MiFID 2 saranno obbligatorie, ma sono già disponibili. E poi deve farsi spiegare se ci sono commissioni di ingresso o di uscita, in quale misura, se ci sono vincoli temporali. Può essere anche utile confrontare le informazioni fornite con un parere terzo, magari consultando siti indipendenti o chiedere un parere a un consulente indipendente, che è lì per quello, no? Per dare anche un secondo parere. Non è necessario affidarsi in toto a un consulente. È molto elegante Lupotto, l'importante è che insomma ci si rivolga a voi anche solo per un parere. Grazie a Gianni Lupotto e Gianfranco Ursino per essere stati con noi. Per tutte le informazioni mancanti c'è Plus 24 domani, c'è Plus 24 con il Sole 24 Ore. Vediamo se allora risponde correttamente Giorgio da Mantova al nostro domandone. Giorgio, buongiorno, la risposta. La risposta: commissioni di entrata, commissioni di gestione, commissioni di uscita. Eccolo là, bravo Giorgio, ha studiato. Decideremo poi il premio. Sì, qua possiamo accontentare tutti. Grazie Giorgio. E adesso abbiamo l'attesissima rubrica del venerdì. C'è imposta per te. I primi due galloni sì, al terzo divento nostalgico e ci può scappare la vita, e tu la reggi. Che domande, sono stata lattata a whisky. Perché questa introduzione, Deborah? Vedo che mi guardi perplessa, perché oggi ti voglio parlare di questo caso. Stiamo preparando le pagine che troverete in edicola lunedì con il Sole 24 Ore. Come sai, ogni lunedì esce L'Esperto Risponde, sono le risposte dei nostri esperti ai quesiti dei lettori. E allora ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, perché oltre ad essere carino, perché parla di IVA e so che tu sei affezionata all'IVA, perché ormai so che mi guarda. L'IVA ti guarda, Deborah, sappilo sempre. Poi è anche in un certo senso d'attualità. Allora, c'è una ditta italiana che compra whisky in botti dalla Gran Bretagna. Certo. Poi però lo lascia lì a invecchiare, lo lascia in Gran Bretagna. Perché il clima è migliore. Oh, beh sì, forse perché c'è un sapere sul tema maggiore. La protezione della regina, che ne sappiamo. Per suoi motivi. E allora l'ascoltatore poi fa una richiesta molto puntuale, dice: ma come devo fare con questa fattura? La devo mettere nell'intrastat? Non ce la devo mettere? E quando la registro? Come la registro? Perché io la merce, insomma, l'ho lasciata là, l'ho presa, ma l'ho lasciata di là. Allora, l'esperto molto puntualmente, oltre a dare risposta sul fatto che lui, per intanto, con l'IVA e la VAT, che è l'IVA detta all'inglese, ma ti guarda uguale, sappilo, allora, oltre a dargli la risposta sull'IVA e la VAT, gli dice: ma guardi, cara azienda italiana, lei faccia un po' come crede, però le rimane poi questa IVA / VAT in sospeso lì, e la Brexit la guarda. E che succede se poi il Regno Unito se ne va e non è più unità, Unione Europea? Cosa che peraltro intende fare, ma il tema è il dopo. E oggi poi lo scopriremo proprio nel discorso di Theresa May da Firenze. Esatto. E quindi la cosa mi sembrava molto attuale. La risposta puntuale sull'Intrastat voglio lasciarla così nella suspense. Vabbè, intanto senza leggetela, saper né leggere né scrivere, è meglio che lasci ancora per qualche mese il whisky ad invecchiare là, perché si trova meglio. Ma tanto poi se invecchia mi pare che migliori. Io non sono un grande esperto no, di whisky. No, infatti io e te, esatto, cioè abbiamo tanti vizi ma non quello del whisky. Questo è assolutamente vero. Grazie a tutti, noi con Due di Denari ritorniamo lunedì e saremo in diretta da Bologna con il Cerzai e la seconda nostra trasferta. Ma guarda quante ne facciamo. Ma viaggiamo tantissimo, esatto. Debora. Buona domenica. Buona domenica.